Funtime Radio presenta Ludico Forum. E papparapappa, parapappa, parapappa, parapappa. Benvenuti carissimi amici di Dietrologia Videoludica sul nostro canale, ma anche a Radio Unificate sul canale di Pixel Deb. Ciao Debora. Buonasera a tutti, eccoci di nuovo qui col grande Simone Pizzi, grandissimo, proprio l'uomo della radio. L'uomo della radio, e questa sera non siamo in radio, però ragazzi, come tutti i percorsi, come tutte le stagioni, anche questa stagione lunghissima e faticosissima giunge al termine, ma la facciamo finire nel migliore dei modi, Deborah, che dici? Cerchiamo insomma di fare qualcosa anche di utile. Beh, direi di sì, perché oggi abbiamo uno sviluppatore italiano e quindi noi sul mio canale io cerco sempre di aiutare i videogiochi italiani, gli sviluppatori italiani, e quindi sono molto contenta che sarà una giornata dedicata appunto a un giovane sviluppatore italiano e al videogioco italiano, quindi sono molto contenta di questa cosa. Quindi è qui con noi Paolo Bortolotto, ciao! Ciao a tutti, buonasera! Benvenuto nei nostri canali, in questo caso sei in una serie di, come posso dire, di labirinto, di crossover incredibili, perché c'è una radio che si chiama Runtime di mezzo, c'è un podcast che si chiama Ludico Forum, cioè ci sono due canali, ossia Dietrologia Videoludica e Pixel Deb, quindi ovviamente il canale di Debora, cercando insomma di capire, di raccontare un po' questa storia tua, personale e ovviamente legata ovviamente al progetto che tu hai, che stai sviluppando in questo momento, progetto tra l'altro che nominiamo, perché giustamente faccio, che fai, non nomini, che si chiama Case Destiny, giusto? Esattamente. Lo trovate già in accesso anticipato su Steam, quindi andate tranquillamente, se volete avete la comodità del QR code, qui QR codate e andate direttamente sulla pagina di Steam e acquistatelo, o perlomeno insomma prima ascoltate quello che abbiamo da raccontarvi e poi lo acquistate naturalmente. E dicevi? Sì, no, e tra l'altro ci sarà, magari ne parliamo con più calma dopo, ci sarà anche a giorni la demo disponibile, per cui anche se volete valutare e così via, potete o ascoltare adesso appunto, oppure potete anche giocare con le vostre mani. Questa ok, Paolo, io inizierei da te, nel senso mm-hmm. che comunque quando ospiti un personaggio, una persona, indipendentemente da qual è il motivo per cui ovviamente questa persona è con noi, ci fa piacere magari conoscerti, cioè cercare di capire un po' chi sei e anche poi dopo piano piano come sei arrivato a questa idea, insomma. Certo, sì, sarà un percorso lungo perché sono tante piccole tappe. Allora, bene, tutto parte più o meno dal... Vediamo. Scusa, ti interrompo subito, intanto salutiamo Vincent Valentine. Ah, sì, buonasera. Lo conosco, ciao Vincent. Che ovviamente grazie a lui poi insomma abbiamo queste connessioni, no? Perché le connessioni... Certo, sono importantissime, super stimolanti tra l'altro. Parlavamo allora, no, anzi, altro che 2003, partiamo ancora un pochino indietro. Si parla di quando avevo, non so, 8 anni più o meno, e i miei genitori stavano, sì, non parlo ad Amedeva, ma con calma. E allora, i miei genitori vedevano che tra tutti i regali che mi avevano regalato, quello per il quale mi attaccavo tipo più tempo era una specie di pianoforte molto, molto semplificato, per cui hanno detto boh, magari proviamo, l'abbiamo mandata a fare calcio, non gli è piaciuto fare basket, mandiamola a suonare pianoforte, vediamo se prendendo lezioni, e la cosa ha iniziato a piacermi tantissimo, quindi il pianoforte già si stava creando nella mia testa. Andiamo avanti, si parla invece del 2007, stavolta, no 2007, 2003 come dicevo, scoprì, cioè, ero già molto appassionato di videogiochi da quando avevo letteralmente 2 anni, sapevo accendere il computer e entrare nei miei giochi e così via, e volevo a un certo punto iniziare a, cioè più che giocare, anche provare a capire come funzionavano, perché erano così interessanti ma chissà come si potevano costruire. Scoprì RPG Maker, che appunto in particolare la versione 2000, si tratta, magari voi la conoscete, di una di un programma che permette appunto di creare in genere giochi di ruolo alla giapponese, stile Final Fantasy, Earthbound, tutta questa serie qui di JRPG, insomma. Esatto, quelli visti dall'alto in 2D. Per cui niente, inizio, ai tempi tra l'altro non c'era, cioè c'era internet, era ancora in Italia uno dei primi anni in cui stava diffondendosi, anche se in realtà ci avevano in pochi, per cui senza internet con solo sto CD qua e ho iniziato da solo a imparare a creare giochi. Cioè, tra l'altro usavo RPG Maker per creare di tutto, cioè non solo JRPG, ma già di tutto assolutamente, perché appunto era semplificato, aiutava abbastanza semplicemente a far cose. 3 anni e mezzo dopo avevo creato circa una 60 di progetti, tra quelli grandi, quelli piccoli e così via. Vabbè, molto discutibile, ovviamente avevo proprio 15 anni, per cui potete immaginare, ma niente. Per finire, appunto nel 2007 iniziai, volevo creare finalmente un JRPG degno di nota, dopo aver giocato i vecchi Final Fantasy e essendomi veramente appassionato, e volevo fare qualcosa di molto simile, però era veramente troppo grosso, avevo puntato troppo in alto, mi mancavano delle basi, diciamo, di programmazione, per cui alla fine purtroppo l'ho accantonato, ho deciso di continuare gli studi, cioè al liceo e di pianoforte. E, sempre nel 2007 in pratica apro il canale YouTube e, per capire, su internet vengo chiamato come Kay The Pianist, e come mai questo nome e come mai Case Destiny, anche c'è questo collegamento. In poche parole, appena ho creato il canale ho visto tutti questi streamer, questa gente che aveva sempre questi nickname, ho detto potrei temporaneamente usare il nome del protagonista del mio gioco che ho appena creato, quando mi verrà finalmente in mente un nome migliore lo cambierò. Cioè adesso praticamente ho cappelli, magliette col logo per cui quel nome è rimasto 16 anni dopo. E niente, per cui intraprendo la carriera, cioè la carriera, l'università di informatica, però avevo sempre questo pianoforte in testa, questi video che volevo continuare a caricare sul canale. E niente, alla fine dopo 15 anni, cioè praticamente 8 mesi fa, mi ricordai appunto di questo progetto che avevo lasciato bloccato, e siccome, diciamo, per situazione lavorativa avevo diversi mesi tra virgolette liberi, ho deciso quindi di arrivare in fondo, perché finalmente le basi le avevo costruite, cioè nel senso le basi di informatica, e quindi eccoci qua. Questa è la storia. Allora facciamo un piccolo passo indietro, perché tu hai detto giustamente, quando eri ragazzino ti hanno praticamente regalato questo specie di pianoforte, cioè nel senso di sì. Forse una pianola, un buon tempi, non so adesso cosa potesse essere, però no, non ancora, sì, semplicissimo, sì, 8 tasti. Poi da lì tu comunque hai sviluppato questa cosa, e che importanza ci ha avuto ovviamente l'aspetto Paolo musicista nell'ambito ovviamente della costruzione anche creativa, poi il fatto che prima o poi comunque ti saresti messo poi a sviluppare un videogioco. Allora di sicuro è stato fondamentale per diversi aspetti, e diciamo il fatto di essere molto appassionato di musica, specialmente di musica di videogiochi, per citare ad esempio una persona a caso, Nobuo Uematsu, che è proprio sull'Olimpo del a caso, così insomma. Esatto, uno così, nel senso, giusto per dire, questa cosa qui è stato molto importante. E inoltre, diciamo, in genere quando si creano videogiochi indipendenti, tutto il resto è abbastanza raro, cioè non per tirarmelo ovviamente, ma è abbastanza raro che uno sviluppatore abbia anche competenze di musica. In genere viene chiamato un compositore esterno, ok? Perché appunto uno si occupa di meccaniche, di così via, magari uno di narrativa e uno di musica. Mentre quello che ho cercato di fare è di creare un progetto il più possibile originale, appunto, e con la musica che ho creato io, ok? Che ho suonato proprio, oltre che composto, anche suonato. Questa è la... Beh, che poi tra l'altro, infatti, che poi questa cosa un po' mi ricorda, cioè, se prendo RPG Maker e prendo musica di un artista, quindi cioè, ovviamente dell'autore, mi viene subito in mente To The Moon, no? Cioè, che comunque è stato un progettone bello, molto emotional, dove ovviamente l'autore è anche l'autore delle musiche, no? Quindi sì, immagino che comunque c'è una focalità su questo. Poi Deborah, che magari l'ha avuto modo di apprezzare, Deborah, magari, cioè nel senso, possiamo commentare, no? Magari se queste musiche hanno comunque un'importanza all'interno della... Beh, direi di sì. Io, vabbè, prima di tutto volevo un attimo ringraziare e salutare, insomma, tutti quelli che si stanno unendo alla serata, e a Nordic Boys volevo ringraziarlo per i complimenti, gentilissimo, insomma, quel cuoricino prima era per te. E vabbè, detto questo, sì, io sto giocando al gioco e mi sta piacendo, e le musiche, come insomma ho detto anche ieri sera nella mia top 10, le musiche sono sempre una parte per me che è fondamentale, sia nei film, nei videogiochi, fanno veramente la differenza. Infatti quando capita a volte che magari qualche gioco non ha le musiche o in determinati momenti non ci sono musiche, ci manca qualcosa, è una sorta, diciamo, di pecca. Allora, quando c'è un motivo valido per cui non ci sia una musica, sono d'accordo, assolutamente ci sta anche il momento del silenzio, però la musica è fondamentale nell'accompagnamento sia della visione di un film ma anche nel gioco, no? Ad esempio a me piace tantissimo la musica di quando il personaggio si muove nella mappa, e la sto cantando questi giorni. Mi banna proprio a me come essere umano YouTube. E c'è da dire che è molto delicata. Io adoro la musica del pianoforte. Il pianoforte penso sia il mio strumento preferito in assoluto, ma non lo so suonare assolutamente. Perché no, io ci ho provato, c'ho la pianola, ci ho provato. Con una mano va bene, con la mano destra. Vado molto a orecchio, tantissimo, ma se devo mettere la sinistra è un casino. Cioè, la mano sinistra a me è proprio inutile. E quindi complimenti che sai suonare così bene il pianoforte, perché io suono con la destra. Entrambe ci riesco. Guarda Paolo, la prossima volta faremo un JRPG io e te insieme, che si intitolerà La mano inutile, che è bellissimo. La mano inutile, che è la mia mano sinistra praticamente, cioè tipo il film Il mio piede sinistro, io ho la mia mano sinistra che è veramente inutile. E quindi le musiche sono veramente belle e sono giuste, quindi c'è la musica ad esempio quella portuale, qui ci sono le città portuali con tanto di gabbiani che si sentono nel sottofondo, quindi sono piccoli dettagli, anche il gabbiano insomma, che a me piacciono tantissimo, quindi complimenti, chapeau per le musiche perché sono veramente belle. Bravo, okay. Insomma, grazie. Fai tutto te, quindi sei bravissimo, complimenti. Infatti in uno dei due trailer c'è proprio lui che, cioè, nel senso sei tu, no? Quello che suona. Sì. Cioè, quindi ovviamente poi giustamente dare poi focalità anche a questo aspetto, che è una parte integrante del lavoro dell'autore, secondo me è importante. Senti, un'altra domanda che ti faccio è, diciamo, è un gioco narrativo, immagino, no? Come tanti giochi JRPG, dicendo, ma la storia come è nata? Aspetta, che non so perché questo, sì, il software di regia mi sta facendo sbroccare, però okay. Comunque dicevo, la storia come è nata? È nata, diciamo, come bozza iniziale, oppure si è sviluppata durante mentre che comunque smanettavi con JRPG Maker, con RPG Maker, ovviamente cercando magari di evolvere anche nell'uso del tools. Sì, allora faccio un leggero passo indietro. Allora, è un gioco narrativo, sì, ma tra i punti principali, diciamo, è l'esplorazione e l'immersione, ok? Per cui la narrativa è un elemento di sicuro importante, ma collegato appunto con il fatto di decidere che cosa fare, se andare, seguire appunto la strada principale oppure esplorare il mondo, scoprire side quest, perché appunto in genere cioè ho collegato il mondo antico, nel senso degli RPG classici abbastanza narrativi, con il fatto di avere tante missioni secondarie, ok? La storia come è nata? Allora, siccome avevo impostato praticamente tutte le basi, creato una specie di struttura di come si sarebbe voluta la situazione nel 2007, e sono partito da queste basi e avevo però semplicemente appunto una bozza, quindi avevo scritto adesso partiamo qua, poi andrò nella, che ne so, una parte innevata, poi da questa parte, da quest'altra e basta. Quindi circa 8 mesi fa ho ripreso in mano questa struttura e ho piano piano cercato di capire che cosa inserire in questi, come si dice, in questi posti, in queste zone dove sarebbero passati e così via i protagonisti. Alcune cose le ho potute dettare, diciamo, già da subito, per altre invece avevo una bozza che poi anche semplicemente creando le mappe e facendomi ispirare un pochino da che elementi potevo inserire, mi sono venute in mente altre idee che ho usato e poi deciso appunto narrativamente che quindi sono partito anche da elementi grafici e ho dato un senso a questi. Ok, sto perdendo come pensavo. Sì, non si sentiva benissimo e non si vede bene neanche il video del gioco. Ok, sono sono su cavo, vabbè. immagino, quindi potrebbe essere anche un mio problema, ragazzi. Però comunque cerchiamo di andare avanti e far finta di niente. Sì. Poi dopo la registrazione e i podcast, poi ovviamente li miglioreremo da questo punto di vista. Quindi ricapitolando, comunque, indipendentemente da tutto, tu hai iniziato prima a, diciamo, c'è Debole intanto qua. Tu hai iniziato praticamente prima utilizzando lo strumento, cioè giocherellando magari con RPG Maker e poi dopo cominciando a costruire una struttura, oppure ce l'avevi veramente già la storia in, o comunque diciamo l'idea di quello che tu volevi fare? Perché io questo ancora non ho ben capito. Ok, avevo semplicemente una struttura dell'idea, cioè della storia da fare, poi piano piano creando le mappe o capendo che elementi potevo inserire nelle mappe, ho piano piano dato un dettaglio ulteriore alla storia, ok? Quindi anche ad esempio alcune side quest, vedendo semplicemente degli oggetti che potevo inserire, ho detto no, questo oggetto assolutamente devo mettere, mi è venuto in mente un minigioco da inserire, quindi l'ho inserito, ok? Ok. Quindi un punto interessante, cioè ho imparato tantissime cose di game design praticamente in questi mesi e ho scoperto quanto fosse tra l'altro enorme, nel senso appunto creare un gioco da zero, specialmente un JRPG, secondo una guida di game design è sconsigliatissimo perché sono veramente complicati, però ho tenuto durissimo e niente, adesso è fatta. Questa cosa qua. Ok, poi Deborah, se c'è qualcuno che scrive qualcosa di interessante in chat, magari dammi una mano da questo punto di vista. Ma ha fatto ridere Francesco quando ha scritto povero gabbiano, ha perduto la compagna. Ok. Sì, sì. No, ero interessato a questa cosa perché in realtà... allora, vabbè, oggi... Cioè, tu hai iniziato molto tempo fa, no? Questa è una cosa importante, secondo me, di questo progetto qua. Cioè, tu quando hai iniziato, forse oggi... Questa è la domanda magari che ti volevo fare alla fine, ma te la faccio adesso perché certo, sì. Secondo me è contestuale. Secondo me tu oggi, se ti dovessi rimbarcare un progetto del genere, probabilmente struttureresti la cosa in maniera diversa, no? Perché... Sì, assolutamente, esatto. No, perché diciamo il punto è stato, ho dovuto riprendere in mano delle idee che avevo fatto quando ero adolescente per capire, esatto. E alcuni mi sono messo le mani nei capelli, no, ormai non posso più mettermele, però è questa storia qua. Quindi alcune cose le ho proprio modificate e addirittura avevo creato, in totale ci sono, mini spoilerino, ci sono 6 continenti nel gioco, ne avevo creati circa 2.5 e diversi punti, specialmente diversi testi che avevo scritto, l'ho dovuto rifare da zero, e specialmente le musiche in genere, come funzionano le musiche, tantissimi progetti, diciamo non su Steam ma creati da persone varie, sviluppatori indipendenti o meno, e con RPG Maker hanno praticamente musiche o quelle standard di RPG Maker, oppure addirittura c'è, cioè, delle musiche con copyright che Steam cioè ti distrugge il progetto se gliele metti. Ovvio. E quindi ho dovuto cambiare praticamente tantissimo delle basi che avevo già appunto inserito tempo fa. Questa cosa. Che poi tra l'altro quando tu hai iniziato, parliamo della, scusa non me lo ricordo, cioè quando hai iniziato il progetto. Al progetto, sì, 2007. Del 2007. Io non ricordo bene. Allora, RPG Maker c'era sicuro come tool di creazione di videogiochi, perché poi sì. Con i tool come RPG Maker tu puoi basarti su quello che l'engine ti dà, o puoi anche sviluppare coding e via dicendo, no? Sì. Però non mi ricordo se già esistevano anche altri tool tipo Game Maker o Adventure Game Studio, questi qua, insomma, no? Che poi alla fine comunque ti permettevano di costruire giochi e sui quali tanti ragazzi, magari italiani o comunque con poche risorse, hanno basato, diciamo, tra virgolette, la loro fortuna, un po' come hai fatto tu, scegliendo comunque un tool. Quindi la scelta del tool è stata obbligata o proprio è stata una scelta? Tu volevi proprio fare un JRPG? Allora, diciamo, siccome avevo imparato RPG Maker e così via, no, semplicemente diciamo il fatto di aver deciso di completarlo era semplicemente per aver studiato e conosciuto, cioè saper usare bene RPG Maker e aver lasciato un progetto aperto, e avere i miei progetti aperti in genere, cioè mi dispiace che non siano completi, sono tipo un po' l'opposto di tante persone che magari iniziano tante cose e le lasciano lì, invece io voglio completarli siccome ho fatto lo sforzo per iniziarlo, ok? Però sì, avrei potuto rifarlo da zero in Unity, in Unreal Engine, eccetera, però avrei dovuto studiarli da zero e non sono per tanti versi dei motori, diciamo, che hanno, cioè magari hanno già delle basi per creare JRPG, però ripeto, avrei dovuto imparare da zero, ci avrei messo molto più tempo di quanto, certo, questa cosa qua, ok. E beh, poi per... sì, no, con un'altra piccola cosina. In pratica, il motore che ho usato è RPG Maker XP, ok? Mentre adesso ne esistono tanti diversi. Stavo valutando di fare l'upgrade a, come si dice, ai programmi più moderni. Avrebbe avuto senso il fatto che però, prima cosa, hanno cambiato un pochino la grafica. Cioè, RPG Maker XP è l'ultimo che ricorda lo stile SNES, ok? Quindi questa pixel art. Mentre appunto quelli nuovi sono un po' diversi, sono fatti con linguaggi, diciamo, web, quindi JavaScript e così via, e avrei dovuto rifarlo da zero per capire. Per cui ho detto, siccome l'ho iniziato con RPG Maker XP, avevo fatto anche le grafiche, e continuiamo in questa direzione e completiamo. E però questa scelta per alcune cose è stata un disastro, perché appunto il codice è fatto con un linguaggio di programmazione vecchissimo. Ho cercato dei forum, cioè, tipo del 2006, c'erano dei messaggi che mi hanno aiutato e poi meno male c'è anche ChatGPT che mi ha aiutato per del coding, altrimenti, cioè, di questi tempi a chi chiedi questi linguaggi, beh, di programmazione? Sì, era proprio la domanda che ti stavo per fare. Eccolo qua. Eh sì, che si chiama Ruby il codice, e basta. Esatto. Sì, il problema è che RPG Maker XP dà molte meno possibilità per, ad esempio, per portarlo su cellulari o su anche su altre console, spero di no, nel senso, finora su PC, Mac e Linux ce la si fa farlo girare, sarebbe stato bello farlo anche andare su cellulari, ma temo che sia molto difficile. Vabbè, vediamo un attimo. Ma infatti, cioè, perché poi tu comunque, allora, questo gioco l'hai iniziato, sì, tanto tempo fa, poi l'hai interrotto per studi, esatto, poi qualche mese fa, diciamo così, a un certo punto, preso dal fatto che ti era rimasta questa, sì, lampadina accesa, la scintilla, cioè, voglio completare questo lavoro che ho lasciato incompleto. Chiaramente ti sei basato su un software che oramai non è più supportato praticamente, e quindi, esatto, ti sei dovuto, sì, abbastanza barcamenare per cercare le informazioni scegliendo di completare questo gioco in un software che sai che ti porrà delle limitazioni, perché un giorno in cui magari il gioco dovesse raggiungere anche un certo successo e sarà necessario magari fare dei porting su mobile, come dici tu, o roba del genere, dovrai fare comunque un lavoro di trascodifica su un altro software. Sì, su questo magari ci pensiamo quando verrà quel momento, però sì, vediamo un secondo. Vabbè, comunque tu hai scelto di farlo uscire come accesso anticipato. Esatto, allora, accesso anticipato, in realtà accesso anticipato molto leggero, perché la storia principale è già completa, sia in italiano che in inglese. È accesso anticipato per due motivi. Primo, perché magari qualche bughino potrebbe esserci ancora, cioè c'erano dei tester che mi hanno aiutato appunto a testare tanti aspetti, ma siccome in JRPG con approccio aperto, poi ci arriviamo, è molto complicato, magari può capitare ancora qualche problemino. Comunque queste cose, questo è un punto. L'altro punto è che ci sarà anche il post game, per cui battuto il boss finale si può ancora girare nel mondo, appariranno nuove queste secondarie, e la particolarità è che chi completa tutto il 100% avrà un regalo che si può scaricare, cioè che va oltre il gioco stesso, quindi dei contenuti bonus che non vi spoilerò, solo chi lo completerà e scoprirà di cosa si tratta. Ok, che poi tu hai fatto tutto fondamentalmente, cioè dalla progettazione dei livelli a comunque la struttura del gioco, alla grafica pure, oltre alla musica ovviamente, ma quello, insomma... Sì, la grafica era il mio punto debole, in un certo senso, perché lato disegno non sono pessimo io, e in realtà ho fatto due cose. Allora, il primo è che fortunatamente RPG Maker XP ha tantissime risorse che si possono trovare online di artisti che permettono di dare gratuitamente anche su progetti come quelli su Steam le loro grafiche, basta citarli nei titoli di coda, per cui un grandissimo ringraziamento a questi artistiche, alcune grafiche sono veramente bellissime. E l'altro fatto è che, ne so, invece se c'erano da modificare alcuni elementi, come si chiama, il fotoritocco, più o meno sapevo farlo, per cui almeno questo l'ho fatto, ok? Quindi questa cosa qua, quindi la parte artistica l'hanno gestita altri artisti, mentre l'unire tutte le grafiche l'ho fatto io, che era più fattibile. Allora, prima di passare a Debora, che sentiamo un attimo un po' l'esperienza che ha fatto fino adesso, no? Perché poi giustamente anche... Ecco, una cosa che vi dico, ragazzi, se comunque doveste scegliere, cosa che auspichiamo che voi facciate, di acquistare il gioco ora, quindi accettando il fatto del contesto in accesso anticipato, probabilmente, no, come giustamente dice anche Paolo, può succedere, no, che si va incontro a dei problemi, dei bug, delle situazioni un po' più complicate. Mi raccomando, comunque segnalatelo sempre, perché è comunque grazie al supporto di tutti che chiaramente l'opera poi può venire completata nelle migliori condizioni possibili. Ecco, diciamo che prima di passare a Debora, insomma, volevo sapere da te quali sono veramente le difficoltà, quelle talmente importanti che hai incontrato che quasi ti hanno fatto desistere dal terminare il progetto, anzi dal cancellare il progetto più che altro. Non ho capito, a me hai chiesto? Sì. Ah, ho sentito che, ok. Allora, sì, un secondo, delle cose che mi hanno fatto cancellare il progetto? No, allora, so. ti ripeto la domanda. Sì, certo, sì, non stavo, certo. Ok. La domanda che ti ho fatto è, qual è stata la difficoltà più grossa che tu hai incontrato che quasi quasi ti ha portato a chiudere, cioè, no, non ce la faccio, non posso andare. Ok. Non so, cioè, in genere sono una persona mega motivata, quando voglio completare una cosa la finisco, per cui... sì, principalmente erano delle cose sempre lato motore, e mi ero lasciato dei dubbi che avrei chiarito solo quando, perché c'erano tantissime cose da gestire contemporaneamente, e le più, come si dice, ad esempio il fatto di caricarlo su Steam o altre cose le avrei riservate quando avrei superato alcuni passi, ok? Alcune appunto di limitazione, nel senso che il motore grafico di RPG Maker XP fa quello che può per alcune cose, e alcuni, ad esempio qualche minigioco, ho dovuto limitarlo perché era troppo, cioè andava veramente a scattissimo tutto, per cui questa cosa però è chiesto troppo al... esatto è troppo ambizioso, per cui delle cose, però no, è più o meno questo. Sì, non posso andare troppo in dettaglio che siamo lato vicino allo spoiler, ma okay. Questa cosa qua. Beh, Debora, parliamo un attimo un po' della tua esperienza, nel senso, se tu oggi, ovviamente sempre contenendo, insomma, il non spoiler, oggi dovessi parlare del gioco secondo l'esperienza che hai fatto fino al punto in cui sei arrivata, chiaramente, ecco, come lo racconteresti? Allora, prima di tutto, vabbè, volevo salutare anche Magnetar Tech che ci ha raggiunto e sta dicendo una cosa che potrebbe essere interessante. Dice, se non sbaglio, Steam dovrebbe avere un tool di bug report automatico integrabile nel gioco. Quindi okay. Io leggo questa cosa, per me non ci capisco niente, però diciamo che ci dovrebbe dovrebbe avere sto bug report, così lo dice poi, io lo leggo e lo dico, riferisco, insomma. Comunque, a parte questo, allora il gioco lo sto trovando veramente molto gradevole. Io adoro i JRPG da sempre e ieri nella mia top 10 ho messo due JRPG, uno che è Final Fantasy X, quindi famosissimo, e l'altro è invece Lufia 2 Rise of the Sinistrals per lo SNES. E infatti, quando ho visto nella presentazione del gioco di cui stiamo parlando, praticamente quando ho visto la mappa dall'alto, ho visto c'è una barca, c'è una certa poi si vola anche, mi sembra, mi ha ricordato tantissimo i bellissimi JRPG dello SNES, mi ha ricordato tanto Lufia, mi ha ricordato anche un po' Chrono Trigger, intendo. Quindi mi ha già dato un'ottima impressione vedendo il trailer, perché mi ha ricordato, insomma, i bellissimi JRPG che sono usciti per SNES. E giocandolo obiettivamente si vede, insomma, che c'è amore verso quel periodo storico, e quindi è veramente un classico JRPG per SNES, praticamente, con la particolarità che ci sono tante quest secondarie, come diceva anche Paolo, e la cosa divertente è che queste quest, spero di poterlo dire, insomma, possono essere danneggiate, nel senso le puoi fallire, quindi se le fallisci poi ti attacchi, cioè non le puoi più fare praticamente. Io ne ho fallita una al mercato, ho rosicato da morire. Ok, hai salvato. Avevo salvato, però okay. Ho detto, vabbè, però voglio essere onesta, nel senso l'ho fallita, basta, non ho voluto barare, cioè quella lì l'ho fallita, ho rosicato ma sono tenuta così. Vabbè, ok, barare, cioè, nel senso io potevo rifare il reloading, no, per evitare di fallirla, però voglio fare un gameplay onesto, quindi io quella lì l'ho fallita miseramente, ho rosicato e vado avanti così, insomma. Quindi anche questa cosa è divertente, che si possono fallire le missioni, quindi bisogna fare attenzione. Ad esempio questa qui era a tempo, questa del mercato, e non ci sono riuscita. E poi ci sono tanti piccoli minigiochi, mentre ad esempio, che ne so, esplori una caverna per arrivare a determinata quest, per arrivare a trovare un personaggio, per arrivare a trovare un oggetto, per arrivare a un boss, e quindi ci sono questi minigiochi che spezzano un po' la classica avventura del esploro il dungeon, ci sono i mostri all'infinito ogni 3 secondi, arrivo al boss, fine. E invece qui almeno è intervallato da magari il minigioco, quindi questa cosa lo fa diventare meno monotono, perché c'è questo intervallo, insomma, tra un boss e l'altro, scusate, un combattimento e l'altro, c'è questa particolarità, e questa è una cosa che ho apprezzato, perché è una cosa che non accade spesso, insomma, nei JRPG. Tendenzialmente quando sei in un dungeon è quello, cioè nel senso ci sta, sì, il combattimento, eccetera, eccetera. Poi a volte ci sono delle leve da spostare al massimo, che ne so, magari per togliere l'acqua devi tirare le leve per poter passare e arrivare alla scaletta. E invece questi sono un po' più particolari, quindi questa cosa mi è piaciuta, perché fa diventare differente un classico JRPG, quindi l'ho apprezzata. E poi ci sono anche dei riferimenti a determinate cose un po' nerd che mi hanno fatto sorridere, soprattutto una mi ha fatto veramente molto sorridere, non la voglio dire per non spoilerare, però diciamo si rifà comunque agli anni 90, alla mia infanzia, e quindi mi ha fatto molto sorridere quel personaggio, insomma, un personaggio. Sì, e poi se c'è una criticità nei JRPG è proprio questa, no? Cioè il fatto che non esiste varietà tante volte, no? Nel senso, so comunque molto monolitici, no? Nel loro modo di essere, e spesso e volentieri c'è pure questa cosa del grinding che diventa un po' una questione. Insomma, Paolo, come rispondi alle osservazioni di... Sì, esatto. Allora, i miei punti, come dicevo, non è solo un gioco narrativo, ho cercato di dare un'esperienza più varia possibile. Praticamente sono 3 elementi. Allora, il primo, quello classico del JRPG con la storia e così via. Il secondo, che è quello appunto delle battaglie, quindi per chi è min-maxer, quindi chi vuole avere l'equipaggiamento perfetto, avere il livello perfetto per battere i boss, battere anche i boss difficili, c'è anche quello. Altrimenti c'è il terzo fatto, che è quello appunto dei minigiochi o di elementi extra. E oltre che il fatto appunto che dicevi, Deborah, c'è anche un'altra cosa che verrà dopo, che farà riscoprire le mappe precedenti, ovvero l'elemento Metroidvania. Significa che più avanti, cioè già ora in realtà qualcosina, ogni personaggio che si trova, tra cui ci sono alcuni opzionali, che adesso non dirò quanti e dove, però ciascuno avrà un potere speciale che potrà aprire alcuni passaggi, anche nella prima mappa, per capire. Mini esempio, all'inizio del gioco, appena si prende mano alla tastiera o al controller, in base a come giocate, vedrete una cassa chiusa, chiusa da una porta, chiusa, e quella si potrà aprire. Quindi ho usato un approccio un po' alla Souls-like, ovvero tutto quello che vedete, cioè a parte qualche caso molto raro, si può aprire o ci si può andare, questa cosa qua. Quindi è molto più esplorabile di quanto sembri all'inizio. Questa è una cosa importante, perché di solito è ciò che non succede, no? Nel senso... Esatto, tutto molto statico, e segui la storia. Ho cercato di avere, appunto, di lasciare questa esperienza più coinvolgente possibile. Ah, esatto, carico. Interattiva. Senti, alla luce della tua esperienza che tu hai fatto, no? Cioè, cos'è che ti ha insegnato realizzare, o comunque questa fase di realizzazione del progetto, e cosa non rifaresti di quello che tu hai fatto fino adesso? Allora, inizialmente avevo fatto una stima più o meno di quanto tempo ci avrei messo a fare tutto, e appunto in totale penso di averci messo 5-6 mesi, cioè full time, cioè non so, 7-8 ore al giorno di lavoro. Quindi c'è un lavoro assolutamente enorme, perché appunto sono tantissimi elementi. Nel senso, ad esempio, voglio mettere una musica di una battaglia, e quella musica dovrà essere, magari prima devo registrarla, ma prima di registrare devo capire come devo farla. Magari faccio diverse bozze, trovo quella giusta, la inserisco, però dico sì, potrei mettere anche qualche altro strumento. Poi metto assieme, ci sono ancora tante cose che non vanno. Tutta questa serie di cose per qualunque elemento del gioco, ok? Quindi è tutta una serie di cose collegate, per cui avere un foglio o comunque una serie di file con una struttura da seguire è assolutamente fondamentale, perché specialmente essendo un gioco aperto col backtracking, quindi col fatto di poter tornare indietro, c'è tutto un fatto di cose da ricordarsi. Usare la mente, non c'è abbastanza RAM per ricordarsi tutto, quindi questo è stato piuttosto complicato da gestire, ok? Quindi tantissime informazioni, però alla fine è stato stimolante. Però sì, appunto, rimbarcarmi da solo in un progetto così ambizioso, vediamo un attimo, cioè magari vediamo un attimo come va questo, esatto, e ne parliamo. Cioè, è stato estremamente interessante, però alcuni momenti sono stati sempre stimolanti, però molto pesanti da portare avanti, perché appunto era complesso. Beh, tu considera che, e qui lo utilizzo come, diciamo, come auspicio, insomma, il futuro, che noi conosciamo molto bene, un po' lo conosce pure Deborah, però comunque io lo ritengo comunque un mio buon amico, Umberto Parisi, che lui ha iniziato facendo un'avventura grafica totalmente da solo. Quell'avventura comunque in qualche maniera gli è andata abbastanza bene da costruire la seconda avventura con un piccolo team, e poi con la terza avventura hanno aperto una piccola società. Cioè, quindi sai, il problema è un po' come riesci a far penetrare il progetto, no? Comunque in qualche maniera, e queste interviste qui, che spero che tu ne farai tante, sì, magari in altri canali, sono comunque anche propedeutiche a aiutare comunque un progetto come questo, perché al di là di tutto, cioè, secondo me quello che va valorizzato, e ribadisco, non parlo della qualità del gioco, che lo sta giocando Deborah e sono sicuro che gli sta piacendo, ma secondo me quello che va valorizzato è anche il lavoro, no? Il lavoro creativo di una persona, di un ragazzo italiano totalmente indipendente, totalmente low budget, se non zero budget, che sta provando a fare un qualcosa per realizzare un po' un sogno, no? È un po'... Esatto. E l'altro fatto, diciamo, è che ho deciso di fare un progetto così grosso, cioè principalmente per passione, però anche appunto come tributo a tutti quei JRPG che mi hanno praticamente formato, questa cosa qua. Cioè, quanto potete vedere, diciamo, le mie cover sul canale di YouTube al pianoforte che ho suonato io, e c'era ancora qualcosa che volevo portare e l'ho, diciamo, concretizzato in questo gioco qua. Quindi potete vedere, sentire la mia musica, sentire magari influenze che lato subconscio, e diciamo, sentendo tanto questa musica di questi JRPG che mi hanno così colpito, me la ritrovo improvvisando nelle mani, per capire. Quindi potete sentire alcuni brani che ricordano alcuni Final Fantasy magari, e così via. Ad esempio, appunto, il tema che citavi prima, Deborah, del mondo, ricorda appunto uno dei temi del mondo di Chrono Trigger, appunto quello, non mi ricordo se è 500 AD, uno di questi comunque. Questa le altre cose mi sono dimenticato. Ma vabbè, comunque, cioè, è normale, no? Cioè, nel senso, sì, perché sono tantissimi elementi che... Ma poi, essendo un'opera molto autorale, cioè, nel senso, alla fine, se tu che lo fai, è normale che ci sono tutte, esatto, le esperienze che hanno fatto parte della tua vita, no? Cioè, nel senso, comunque, sì, l'importanza che tu hai dato a cose che ti hanno influenzato, ed è giusto che sia così, cioè, perché, esatto, sai, sì, c'è sempre una differenza che la gente non capisce tra citazione, plagio o semplicemente ispirazione, che sono tre cose completamente diverse, no? Esatto. Quindi comunque il fatto che tu ti sia ispirato non c'è niente di strano. No, ok. No, se posso dire ancora una cosa, esattamente, in diversi progetti, non è troppo una critica, ma è un po' una constatazione, in diversi progetti indie molto semplici, magari molti mettono delle citazioni, ma solo per citare, cioè magari che ne so, questa cosa qua, mentre... Come sfondi una porta aperta su questo? Perché io se leggi sta frase dici, va bene, ma che senso ha? No, invece ho cercato di inserire alcuni riferimenti, ma abbastanza sottili, in modo da... E chi conosce appunto da che opere tratta ha un valore aggiunto, ok? Altrimenti sono delle frasi che sono contestualizzate nella storia, ok? Per cui non è niente di altisonante, oppure che dici, se non conosci la citazione dici, ma perché ha detto questa cosa? Invece è una cosa che puoi sia e capire se non conosci l'opera, oppure apprezzare ancora di più se capisci da dove viene. E qui ti faccio un'ultima domanda, poi passo a Debora se vuole dire, aggiungere cose, commentare, fare domande o leggere la chat, quello che vuole, insomma. E questo però può essere da, diciamo, come aiuto, come input che tu puoi dare a tutte le persone che come te un giorno ci vogliono provare, no? Perché secondo me non è tanto costruire il gioco, che è sicuramente la cosa complicata, però quello che la gente si domanda è come si fa a mettere un gioco su Steam. Sì, sì, è stato complicato, perché allora prima cosa bisogna andare su Steamworks, è scritto works come lavori in inglese, e lì bisogna per prima cosa entrare col proprio account Steam, ovviamente, e dire di voler creare un nuovo prodotto. Quindi c'è un tasto tipo, è chiamato crea prodotto, e facendo questo, allora, prima cosa appaiono un sacco di fogli da stampare, compilare, così via, legali, questa cosa qua. Secondo fatto, ora si parla di soldi, bisogna pagare $100 per creare lo spazio dove caricare il proprio gioco. Quindi per ogni prodotto che si vuole caricare, prodotto significa gioco collegato a demo, collegato a DLC, certo. Vabbè, e così via. Esatto. E, fatta questa cosa, dopo che viene accettato da parte di Steam, tra virgolette si parte, per cui si inizia a inserire tutte le descrizioni, che sono veramente tante, le immagini, le grafiche, video, veramente un sacco di cose. E, secondo fatto, invece, bisogna caricare la prima parte del gioco, che verrà inizialmente revisionata da Steam. Per la revisione servono diversi giorni, perché la devono magari testare, vedere se ha senso. Il problema è appunto questo fatto di caricamento. Diciamo, si può caricare in più modi, ma diciamo, per chi è interessato, dovete cercare Steam GUI, scritto G-U-I, ok? Steam GUI Pipe, e questo qua è un programma, semplificato no, però comunque che aiuta a caricare i propri giochi su Steam. E trovate sempre su YouTube un tutorial, scrivendo sempre Steam GUI Pipe, il primo video in genere, è il tutorial che spiega come fare, esatto, però è molto macchinoso. Bene. Comunque, se avete altre domande, scrivetemi sempre sull'email che trovate su Steam, così vi do una mano senza problemi. Ok, così. Vuoi dire qualcosa? Io? Sì. Ah, scusa. No, sono incentratissimi stasera, mi raccomando. No, avevo sentito solo, vuoi dire qualcosa? E dico, ma io non avevo sentito Debora. E allora, guarda, secondo me ci starebbe una crema su Switch. Quindi se poi riesci, insomma, a farlo andare anche lì in qualche modo. Scusa. C'è sta proprio una crema. Traduciamolo per i non c'è sta una crema, i non laziali. Allora, una crema sarebbe proprio a puntino. Calcola, gli stavo dicendo, è la morte sua, che è comunque romano uguale, quindi come posso renderlo così bene non in romano? Posso dire che sarebbe adatto, sarebbe adeguato, sarebbe esageratamente perfetto, non lo so come vogliamo dire, però non rende bene. A morte sua c'è sta una crema, secondo me rende meglio, onestamente. E su Switch, perché che ne so, io ad esempio sul Nintendo DS, sul Nintendo 3DS, ho giocato a dei JRPG quando andavo al lavoro, sul treno, avanti e indietro, tutti i giorni, in ora andà, in ora tornà, e mi hanno fatto tantissima compagnia, quindi onestamente io questo lo giocherei benissimo sulla Switch, ad esempio andando al lavoro, tornando dal lavoro, insomma, quell'ora di treno ci starebbe benissimo, quindi... Se riesci a farlo uscire anche lì, secondo me ci sta bene, insomma. Okay. È un consiglio, perché lo vedo perfetto. Altrimenti vi comprate una bella Steam Deck e la fate finta che state a giocare sul Nintendo DS. Sì, se no, io però Steam Deck non ce l'ho, e quindi punto alla Switch ce l'ho. Sì, tipo 10 volte più pesante, un coso enorme. Esatto, vabbè. Diglielo, è meglio su Switch, che io già ce l'ho apposta. Sì. No, tanto stanno uscendo tantissimi device, tantissimi dispositivi adesso, mobile, anche Sony, anche Asus, per cui speriamo. Bene. Va bene, dai. Paolo, vuoi concludere dicendo qualcosa che magari non volevi aggiungere, oppure facendo una chiosa, insomma, su questa nostra chiacchierata che abbiamo fatto su Case Destiny? Mi raccomando, dopo vi rimetto il QR code, così ve lo andate a cercare. Ok, vediamo. Sì, non saprei, in realtà è appunto, cioè, c'è tanto da scoprire. Cioè, all'inizio può sembrare molto simile, molto cliché per chi ha giocato tanti JRPG, ma è tutto un crescendo. Per cui a chi, diciamo, sa attendere, sa investire, poi verrà assolutamente ricompensato. È un po' anche il messaggio di fondo che si può leggere tra le righe del gioco. Bene. Bene, bene, ok. Debora, salutiamo i nostri amici. Sì, aspetta, volevo dire, insomma, che alla fine, se uno è appassionato di JRPG, sa che il gioco tendenzialmente è lungo e che appunto piano piano si sviluppa, quindi l'inizio è una sorta di introduzione, inizia a conoscere i personaggi, inizi a conoscere le problematiche dei personaggi, poi piano piano si aggiungono nel gruppo il mago, il ladro, il chierico, il bardo, io non so, pure il bardo ci metto e so io il bardo che canto sempre e quindi, cioè, chi gioca ai JRPG sa bene che la storia parte piano, però poi dà tante soddisfazioni, insomma fa parte proprio del tipo di gioco, quindi secondo me non, sotto questo punto di vista non ti preoccupare, cioè, se uno conosce il genere ed è appassionato sa bene che all'inizio è una sorta di introduzione e poi piano piano la storia si evolve, viene spiegati i misteri, quello che sta succedendo, insomma, quindi secondo me va benissimo così, onestamente lo sto giocando volentieri, anzi ti ringrazio, insomma, di avermelo fatto giocare, perché sono contenta, insomma. Ti permetto, Paolo, che Debora è una persona molto critica, cioè c'ha una soglia, diciamo, di accettazione molto più alta rispetto a tante persone, sono un po' più generose, diciamo. No, con questo non significa che è sempre critica, però diciamo che ha il suo livello di criticismo, con poca pazienza, de base. Quindi è un complimento positivo quello che ricevo. Ottimo, grazie. Tipo, massacrare gente più, che ne so. Va bene, detto questo, io ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato qui, che sono stati con noi in chat, soprattutto Vincent Valentine, vedo Peppe Pugliese, Francesco Di Muro, poi chi altro, Debora? Aiuto, ci sta Luca, ci sta Paride, Nordic Boys, Magnetartec, un giorno lo imparerò, e niente, quindi tutti quelli che sono stati con noi, in verità poi prima sul canale mio ce n'erano 8 collegati, ma sono stati timidini questa sera, però c'erano anche altre persone, quindi salutiamo scritto anche chi non ha partecipato nella scrittura. L'importante è ascoltare, non è detto che devi per forza dire sempre qualcosa, insomma, Ok, io vi ricordo, insomma, che potete cercare ovviamente Case Destiny su Steam, lo trovate ovviamente come accesso anticipato, andate lì e ovviamente acquistatelo, date un supporto e soprattutto aiutate Paolo qualora dovesse incontrare, insomma, delle piccole problematiche, c'è anche il QR code così proprio per aiutarvi a non essere troppo pigri. Io ringrazio e saluto ovviamente anche Debora, che, insomma, trovate anche lei il suo bel QR code, insomma, da andare sul suo canale, iscrivetevi, attivate la campanella, guardate, dai, che arriviamo a 900, ci siamo quasi, noi siamo dei supplì in canna da mesi, ormai un supplì grosso così almeno un supplì gigantesco comunque, quindi voglio dire una cosa, viva gli sviluppatori italiani, sempre. Viva il videogioco italiano e niente, io spero ce ne saranno sempre di più e li porterò sempre sul mio canale, perché dobbiamo aiutare il videogioco italiano. Io sono contenta che negli ultimi anni, anzi, sta prendendo piede anche all'estero, stanno vincendo premi, insomma, quindi sono molto contenta di questa cosa e quindi in bocca al lupo Paolo per tutto. Ok, grazie. Vabbè, comunque, prima di salutare Paolo, vi ricordo che Dietrologia Videoludica fa parte del progetto Runtime Radio, che è ovviamente la nostra radio geek che oramai da anni mi fa compagnia, che ha superato il suo momento di crisi, che ringrazia tutte le persone che hanno supportato nel periodo di maggiore difficoltà, che adesso va un po' in pausa, quindi ci saranno trasmissioni su runtimeradio.it molto a casaccio. Poi a settembre riparte la nuova stagione con tante nuove iniziative e secondo me anche qualche nuovo speaker e qualche nuova trasmissione. Quindi, insomma, continuate a seguirci e soprattutto a sostenerci. Detto questo, prima di ringraziare ovviamente Paolo, ringrazio Deborah che mi ha fatto compagnia in questa live. Ma grazie a voi, ripeto, di avermi pensata, insomma, anche per il gioco, lo continuerò volentieri, lo voglio finire. Okay. Noi continueremo a seguire le evoluzioni e ringraziamo Paolo giustamente perché insomma ci ha dato anche la chiave, la possibilità comunque di giocare il gioco e di poterne anche parlare e qualsiasi cosa, qualsiasi evoluzione, Paolo, tu sai che insomma noi siamo qua a disposizione e magari qualsiasi aggiornamento, cose importanti che devi comunicare, noi siamo sempre aperti. Certo, grazie. No, grazie a voi per la disponibilità, appunto, per partecipare sui vostri canali. Bene. Bene, bene, dai ragazzi, io direi che per questa sera è tutto, ma soprattutto per questa stagione è tutto, ragazzi. Chiudiamo in bellezza e ci vediamo a settembre, ok? Ciao a tutti! Buona serata! Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.